sbagliando, ti stai sbagliando. Voglio spiegarti la nostra realtà. Le persone sono assenti, giocano con i sentimenti. Portami via con te, proteggimi. Portami via con te, proteggimi. Siamo guardati in fondo all'anima, perché siamo soli. Un aereo di notte per tornare a casa e cambiare musica. E cambiare musica. Amici miei, io vi amo. Amici miei, io vi amo. Stanotte volevamo andare via. Stanotte volevamo andare via. È affascinante. Sto parlando con te.